Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci, è arrivato il nostro momento, sono le 11.07, in regia la parte tecnica Peter Bescapè, in redazione Laura Vanossi, subito il nostro sommario. Cure ordinarie e straordinarie per chi ha Omega Star. La tua voce ha bisogno di coccole, se le merita. Nuove linee guida per omeopatici più sicuri. Altezza mezza bellezza, dice un proverbio, forse l'altra metà la fa la chioma, almeno così dicono numerose ricerche che si sono un po' prese la briga di andare a sondare e misurare l'importanza che ciascuno di noi attribuisce alla propria e all'altrui chioma. Di questo avremo modo di parlare nel corso della trasmissione, ma in particolare vorremmo concentrare la nostra attenzione sulle cure ordinarie e straordinarie da dedicare ai nostri capelli. Ci aiuta oggi la dottoressa Sandra Lorenzi, buongiorno dottoressa, bentornata. Buongiorno Nicoletta, bentornata a voi. Direttore scientifico dell'IDE, l'Istituto Dermatologico Europeo di Milano. Dottoressa Lorenzi, i capelli dicono molto di noi, anche il modo in cui li acconciamo rivela qualcosa, ma soprattutto dicono qualcosa sulla nostra salute. C'è una relazione molto stretta tra il loro aspetto e il nostro benessere, almeno così noi crediamo, ma me lo confermi lei? Almeno noi così non crediamo. Diciamo, io non so, vorrei dire che fondamentalmente non ci sono poi degli standard, no, per definire la bellezza, in quanto c'è sempre un concetto di relatività e di soggettività. Però sicuramente avere dei bei capelli rende molto armonioso il nostro aspetto, e ci sono degli studi scientifici molto importanti in cui si parla di stretta correlazione tra quella che è il nostro benessere, il nostro benessere fisico, quindi il corretto approccio con la nostra alimentazione, e la bellezza dei nostri capelli. Quindi sì, assolutamente. Allora, sì. Dottoressa, proviamo a guardare i nostri capelli. Non ci piacciono mai, li vorremmo sempre diversi. Se sono lisci li vogliamo ricci, ecco, se sono ricci li vogliamo ricci, biondi, bruni, ecco. Le vogliamo sempre di più, che tengano, che siano grossi, invece sono fini. Ma insomma, guardiamo quelli che abbiamo, pochi o tanti quelli che abbiamo in testa. Quando cadono, ad esempio, noi siamo subito molto preoccupati. Quando cadono più del quello che noi pensiamo del normale, li troviamo sul pettine, sul cuscino, sul lavandino, e allora pensiamo subito ad un periodo o di cambio di stagione, come questo essere sotto stress. Non stiamo parlando di una caduta importante, quindi di una caduta però un pochino più preoccupante. Che cosa può significare? Insomma, vedere dei capelli nel lavandino, vedere qualche capello in più sul cuscino, vedere dei capelli che ci cadono sulle giacche ci mette sempre un pochino a disagio. Allora, io dovrei prima di tutto tranquillizzare, forse che è la cosa più importante. Bello, mi piace. È vero, giusto. Ed è giusto che in autunno, ed è giusto che nei cambi di stagione ci sia una caduta leggermente praticamente superiore, ok? Anzi, addirittura si pensa, ci sono degli studi che dicono che questa caduta autunnale sia legata ad esempio a tutto il sole che abbiamo preso, bravissima, durante il periodo estivo. Ci sono anche alcuni individui in realtà che oltre al picco autunnale hanno anche un picco primaverile, ok? Allora, quindi è sempre importante discernere se la caduta è normale o è leggermente aumentata. Come possiamo fare? Dobbiamo usare delle tecniche molto semplici, ad esempio vedere quanti capelli troviamo nel lavandino quando li laviamo. Ok, allora diamo dei numeri, perché i numeri sono importanti, o perlomeno ci muoviamo con i numeri. Se abbiamo una caduta che va dai 50 ai 60 capelli al giorno, è normale, ci sta con la stagionalità, non ci preoccupiamo, possiamo fare qualcosa per aiutarla. Se superiamo i 100, iniziamo a dire che 100 sono un bel mazzetto di capelli, perché uno dice non posso mica mettermi sulla lavandina a contare i capelli che perdo, ma 100 sono già un mazzettino di capelli. Dottoressa Lorenzi, abbiamo a volte l'impressione che i capelli non crescano. Magari ce li siamo tagliati con la luna sbagliata, dicono alcuni. Intanto ricordo il nostro numero verde, che in questa cura dei capelli ho dimenticato di ricordarlo: 800 24 0024. I messaggi al 349 238 6666. Dottoressa, se i capelli non crescono, sono sempre alla stessa, allo stesso livello? A parte alcune particolari patologie in cui può esistere una condizione di questo tipo, ma esistono anche altre diciamo concause, i capelli non crescono. La causa più frequente è la fragilità del fusto, quindi non è che i capelli non crescono dalla radice, è che i capelli si spezzano. Ora, questo capita quando, ahimè, abbiamo una scarsa cura del nostro capello. È vero che ci sono delle malattie ereditarie in cui i capelli sono più fragili e quindi si spezza però a pochi centimetri dal cuoio capelluto, ok? Quindi, invece quello di cui parliamo quello ora... Quello di cui parliamo ora è in realtà una fragilità che interessa l'estremità distale del capello, ok? Quindi quella parte che si sottopone ai nostri trattamenti chimici e fisici, quindi tinte, tinture, piastre, non piastre, stirature, tutte cose che danneggiano praticamente le cheratine della corteccia. Se la cheratina della corteccia è danneggiata, i legami tra i punti di cistina diminuiscono, ok? E la cistina è proprio l'aminoacido che forma la cheratina dura, quindi il capello diventa fragile e si spezza. Noi di tutti i trattamenti permessi, controindicati, parleremo nel corso della trasmissione. Rispondiamo ad Alba, che ci scrive invece che cosa può significare avere i capelli sempre elettrici. Dottoressa. I capelli sempre elettrici sono un problema molto diffuso. Questo si verifica, allora consideriamo praticamente che il nostro capello, voglio essere molto semplice nella descrizione in modo che uno riesca ad immaginarsi un capello al microscopio, è come una lisca di un pesce, ok? Allora, i capelli diventano elettrici quando le cuticole, quindi le lische, si alzano, si sollevano, ok? Quindi la corteccia, la parte sotto del capello, diventa esposta a delle cariche elettriche negative. Questo è un segno di danno del capello, questo vuol dire che i capelli sono molto danneggiati e tendono ad aggrovigliarsi, soprattutto nelle zone dove ci sono questi attriti. Balsamo. Noi invitiamo gli ascoltatori a chiamarci all'800 24 0024, perché parleremo proprio dell'ABC, dal lavaggio, quali shampoo utilizzare, quali prodotti vanno utilizzati anche dopo lo shampoo, il balsamo se è davvero necessario, e tutto quello che utilizziamo per rendere più belli i nostri capelli. Penso al colore, alle tinture, ma anche il modo, quando devono essere tagliati, il modo di spazzolarli. 800 24 0024. Mi fa sorridere un messaggio di un ascoltatore che ci scrive: mi state facendo venire l'ansia, ho tre peli in testa, nonostante le assidue cure di tutti i tipi. Se la bellezza sta nella chioma, allora io sono un mostro. No, non sta nella chioma, abbiamo detto che c'è anche l'altezza, magari lei è alta e poi a noi piacciono anche. Dottoressa Lorenzi, concorda? Gli uomini? Assolutamente sì, è chiaro che c'è il fascino dell'uomo pelato, assolutamente. O quasi. Ma si dice, c'era quel bellissimo modo di dire, no? Che la calvizia era legata praticamente alla virilità di un uomo. Quindi, ecco, speriamo di aver tirato sul morale il nostro amico con tre peli in testa, che può sempre conservarsi con cura. Almeno quelli che abbiamo teniamoli, però. Teniamoli e con consigli per tutti. 824 0024. Una mela al giorno. E adesso vorrei parlare con voi della nostra voce per imparare a prendercene un po' cura. Devo dire che è un'attenzione a cui non siamo stati educati e forse che ci viene anche difficile, proprio perché non conosciamo l'anatomia e la meccanica che stanno dietro la produzione dei suoni, delle parole. Allora ho chiesto aiuto ad un'esperta, la dottoressa Mariangela Viganò, foniatra all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Dottoressa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei. Noi siamo abituati a dedicare alcune parti del corpo molte attenzioni, a volte troppe, e a certo. trascurarne altre. La voce, o meglio tutto quello che sta dietro alla produzione della voce, l'apparato pneumofonatorio, come lo chiamano gli addetti ai lavori, è sicuramente una di queste. Allora oggi mi piacerebbe, con il suo aiuto, regalare alla nostra voce un po' di relax. Noi lo facciamo solitamente quando siamo stanchi, ci sentiamo la testa piena di pensieri, stacchiamo la spina, lo facciamo per i nostri muscoli, per la nostra digestione, per la nostra pelle. Bene, oggi lo faremo per la nostra voce. Che dice, ce la faremo? Sì, sicuramente. Allora, direi che giustamente ha detto che la voce è proprio il prodotto di più sistemi e apparati. Quindi quando dobbiamo prenderci cura della nostra voce, dobbiamo innanzitutto pensare che anche l'apparato respiratorio, quindi i nostri polmoni, hanno un ruolo fondamentale nella produzione della nostra voce, perché rappresentano il motore vibrante delle nostre corde vocali. A questo punto direi che la cosa più importante da effettuare per poter coordinare bene l'emissione della voce è fondamentale utilizzare bene la respirazione, soprattutto quella di tipo diaframmatico. Potremmo, ad esempio, un esercizio molto semplice da effettuare da seduti, posizionare una mano sulla regione diaframmatica, che è quella regione che sta subito sotto lo sterno e sopra la zona ombelicale. Prenderemo a questo punto lentamente aria dal naso, effettuando un rigonfiamento della regione diaframmatica. Emetteremo un soffio prolungato lento per svuotare completamente i nostri polmoni. Potremo cominciare a preparare quell'equilibrio fra respirazione e voce che sono fondamentali per la coordinazione pneumofonica. Fatto questo, siamo pronti per un esercizio in più di coordinazione pneumofonica, che ci servirà anche per impostare un attacco dolce della nostra voce, visto che spesso nell'arco della giornata, anche per situazioni di stress, tendiamo ad effettuare dei traumatismi alle nostre corde vocali con dei colpi di glottide veri e propri, che possono nel tempo sfociare in situazioni patologiche come la formazione di noduli. Allora, per fare il riscaldamento, che cosa dobbiamo fare? Prenderemo sempre lentamente aria dal naso, gonfiando la regione diaframmatica. Poi possiamo effettuare una brevissima apnea, contando mentalmente fino a 3, dopodiché emetteremo un suono dolce preceduto da una risonanza con delle vocali che noi chiamiamo morbide, in questo modo. In questo modo le nostre corde vocali effettueranno una vibrazione che non sarà assolutamente preceduta da bruschi colpi di glottide, ma avrà una vibrazione molto lenta e omogenea, evitando queste situazioni di stress e di traumatismo. Dottoressa Viganò, mi sento già le corde vocali un pochino più rilassate. Rilassate. Lei è terapeutica. Intanto proveremo, andremo di respirazione diaframmatica e poi queste, lei le ha chiamate? Risonanze. E poi andremo di risonanze. La lettera da usare è la M? La M, sì. Ecco, magnifica M. M come mamma. Si può anche chiamare la mamma per fare questo esercizio. Certo, non a caso è una delle prime vocalizzazioni che noi emettiamo. Il nome mamma deriva proprio da quello, perché è una bilabiale seguita da una vocale semplice. Le mamme sono sempre terapeutiche. Basta chiamarle. Dottoressa Viganò, io la ringrazio per essere stata con noi. Le auguro una buona giornata e un ottimo lavoro. Grazie anche a lei, buona giornata. Pronto soccorso. Come porti i capelli, bella bionda? Tu porti alla bella marinara. Dipende tu molto dalle serate. Come l'onda. Dunque io di solito i capelli me li tiro. Ma come porti i capelli, più che posso. Bionda. Tu poi con l'astico mi faccio marinara. Una coda di cavallo che scivolando se ne va via giù, tutta sulla moquette. Oppure mi faccio la riga in mezzo e due scignoni. Ma come porti i capelli, bella bionda? Oh, dunque guardi. Quel martedì venerdì faccio lo shampoo. Come l'onda. Poi mi do una bella cotonata e me li schiaccio di tutti su un occhio. Più che posso. Bella marinara. Oppure me li stiro sul di fianco. Come l'onda. Con le mesh. E noi sentiamo come li porta i capelli, non una bella bionda ma una bella mora, perché in linea con noi abbiamo Rosita Celentano. Rosita, ciao, bentornata. Ciao, grazie mille. Senti, tu li porti lunghi, i tuoi sono belli, e un po' li porti come la tua mamma. Ti sei ispirata a lei? Sì, quando ero piccola mia madre aveva il vizio peraltro di tagliarceli i capelli con la scusa di rinforzarli. Sì. E quando ho potuto iniziare a decidere intorno ai 14 anni a ribellarmi e a dire no, adesso non me li tagliare più, ho smesso di farmeli tagliare e infatti la mia idea era quella di averli lunghi come lei. E poi li ho tenuti per 25 anni così, lunghi, pari come un hippie con la riga e mezzo. Senti, cure ordinarie e straordinarie per i tuoi capelli, te ne occupi molto o hai dei bei capelli che... come la tua mamma? Guarda, no, mamma, io ho i capelli fini come quelli di mio padre, mia madre invece li ha più grossi, però ti dico la verità, la cultura nostra è sempre quella di mangiare sano, perché la pelle, i capelli, le unghie, i denti sono molto dipendenti da quello che si mangia, quindi non è che ho fatto cure particolari. Poi io nella mia vita non li ho mai tinti, ho fatto forse due volte i colpi di sole, ma poi mi annoiavo terribilmente ad andare a rifarli, quindi era una cosa, sono state giusto così due volte in 40 anni. Credo in parte che dipenda anche un po' dalla costituzione, no? E anche dall'ereditarietà, come la pelle. Uno, se ha un genitore che ha una buona pelle, è più facile che abbia una pelle che invecchi più in là. I capelli penso che siano la stessa cosa. Chiediamo alla nostra dottoressa Lorenzi, che è in linea con noi. Dottoressa Lorenzi, ha ragione Rosita, ha risposto a tutti i punti praticamente chiave la prende vera. Come sua assistente? Sì, sì. Sì, a parte sia per i capelli, sì. Che effettivamente, sai quando uno ti fa la classica domanda, ma come puoi identificare un soggetto che ha dei bei capelli? Bene, i capelli devono essere lucidi, morbidi, al tatto, e danno proprio la sensazione di bellezza e dell'essere sano, ok? Sono d'accordo con lei sull'alimentazione, è assolutamente importante, un'alimentazione che sia ricca, varia in tutto, quindi ricca di lisina, che è un amminoacido presente nella carne, ricca di antiossidanti, di vitamine. È normale, i trattamenti cosmetici agiscono sul fusto, lo danneggiano, e quindi è normale che il capello possa perdere in termini di brillantezza, ok? Il capello diventa più opaco, diventa più ruvido al tatto. Ed è la genetica certo. È la cosa più importante. Rosita c'ha una mamma che si chiama Claudia Mori, adesso sì, voglio dire, anche facilitata, anche vista la sua mamma, ecco. Quindi è lì da vedere. Rosita, volevo chiederti se magari hai anche tu, con tutti questi bei capelli che immaginiamo anche lucidi, però a vederti sembrano perfetti da manuale, se però anche tu, come tutti noi, hai avuto dei momenti in cui hai pensato che magari di dover cambiare shampoo, di dover fare qualche trattamento, oppure ti è rimasto un dubbio? No, l'unica cosa, c'è stato un periodo che ero convinta che mi stava venendo la forfora, invece no, mi si scorticava la cute perché probabilmente usavo uno shampoo troppo forte. Sì. E poi ho iniziato a usarne uno invece delizioso che uso tuttora, che prendo in farmacia, e non ho mai più avuto questo problema. È stato l'unico problema forse che ho avuto in vita mia. Tieni presente che per me i capelli, io vivo i capelli come Sansone, cioè guai chi me li tocchi, io avevo veramente il culto del capello, e io tendo sempre a gestire tutte le cose della persona e della salute nel modo più sano possibile. Sono una che fa fatica a prendere le medicine, piuttosto mi appoggio alla medicina omeopatica. Sono una che pensa piuttosto di migliorare l'alimentazione se il capello, la pelle ne risente, cioè tendo sempre a fare queste cose qua, quindi in questo ho sempre avuto questo tipo di cura. Senti Rosita, tra l'altro tu esci con il tuo primo libro tra poco, che ha un... Esatto. Titolo un po' particolare, vogliamo ricordarlo? Grazie a Dio, le corna. Ecco, quindi le corna magari nascoste, i capelli servono anche a quello, no? Se sono un po' cotonati le nascondono, ma... I capelli servono a quello, però io preferisco farle vedere a questo punto, perché ho scoperto che tutto sommato possono... Insomma, c'è anche un lato positivo nello scoprire di essere stati traditi, c'è un... come dice, bisogna vedere sempre i lati positivi in tutte le cose, aiuta a migliorarsi, a capire che forse le cose non andavano come si pensava, insomma ti obbliga a una realtà che uno poi deve affrontare. E io ho voluto scrivere questo libro, in realtà mi ci sono messa casualmente, più scrivevo e più mi rendevo conto che poi l'avrei provato a pubblicare, perché vale la pena a volte perdonare. Certo. A volte si dà troppo peso alle corna per sfasciare una relazione, come altre volte non si dà abbastanza peso. Quindi ho fatto una mia analisi di 20 anni dove ho avuto delle storie importanti e ho scoperto che di essere praticamente quasi sempre cornuta. Ecco, senti Rosita, comunque non ti sei tagliata i capelli, cosa che invece spesso capita quando finisce un amore o abbiamo un momento difficile. Per cambiare, le donne spesso cambiano look. Rosita, io ti ringrazio per essere stata con noi, saluta la tua mamma. Grazie. Anche grazie il tuo a te, papà naturalmente, anche quella bella famiglia. Grazie a Rosita Celentano, torneremo grazie. Insieme perché questo libro mi intriga molto. Grazie Rosita, buona giornata. E abbiamo Nicola che ci chiama da Venezia, buongiorno Nicola. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, senta, io una domanda un po' abbastanza semplice, nel senso che più che altro una curiosità. Io ho 26 anni, ho sempre avuto un capello che è stato sempre molto rigoglioso, una classico testone di C. L'unica cosa, da un paio d'anni, un anno e mezzo a questa parte, ho iniziato a notare un progressivo diradamento nella zona della nuca e della stempiatura. Sì. Io diciamo che allora ho una madre, visto che abbiamo parlato anche di genetica, che ha sempre avuto, anche lei è stata famosa per avere capello sano, Sì, Nicola, la sentiamo male, quindi mamma con chiomata, mentre il papà? Papà invece con un capello più fine, liscio e tendente un po' alla perdita. Allora, dottoressa Lorenzi, una risposta rapida a Nicola, perché noi tra poco abbiamo i mercati, torneremo naturalmente su queste cadute che preoccupano sia gli uomini che le donne, ma soprattutto parleremo di trattamenti. Dottoressa Lorenzi. Ah, Nicola, sai, la genetica è al 50%, quindi questa descrizione mi farebbe pensare forse che c'è un qualcosina che ci avvicina più al papà che non alla mamma. Si faccia visitare, una visita. Meglio rivolgersi ad uno specialista quando il capello inizia a darci qualche problema, piuttosto che aspettare e vedere se si assomiglia di più alla mamma o al papà. Siamo tornati insieme, oggi parliamo di capelli. Se volete avere un consiglio dai nostri esperti, chiamate l'800 24 00 24. Parleremo anche dei capelli dei nostri bambini, ma prima voglio parlarvi di una notizia che riguarda il nostro cuore. Un gruppo di ricerca italiano ha scoperto alcuni geni che predispongono all'infarto indipendentemente da tutti i fattori di rischio noti. In linea con noi il professor Pier Mannuccio Mannucci, professore di medicina interna presso la Fondazione Ospedale Maggiore di Milano. Professore, benvenuto. Grazie, buongiorno. Professore, allora, l'infarto è scritto nei nostri geni? Indubbiamente la genetica ha un ruolo importante, quindi sì, è in parte scritto nei nostri geni, ma non bisogna dimenticare che ci sono dei fattori di rischio ambientali che possono essere corretti, mentre evidentemente la genetica non si corregge. Parlo del fumo, parlo della scarsa attività fisica, parlo dell'ipertensione, del diabete, dei grassi nel sangue alti. Professore, ma come si può sapere se si è geneticamente predisposti all'infarto? La familiarità sicuramente conta. La familiarità sicuramente ha un ruolo, però non nel senso che ci sono casi di infarti, soprattutto che sono sviluppati in età giovanile, diciamo prima dei 60 anni in famiglia, questo vuol dire familiarità positiva. Però non sempre, diciamo, le alterazioni genetiche danno una storia familiare positiva. Professore, ma aver individuato alcuni geni responsabili dell'infarto, che ripercussioni cliniche avrà? Noi abbiamo visto, innanzitutto permette di valutare meglio il rischio, però come ho detto ci sono dei fattori di rischio che si rilevano molto più facilmente, come quelli che ho menzionato prima, fumo, sì, ipertensione, scarsa attività fisica, obesità. Questi geni aiutano in qualcosa a migliorare il rischio, ma soprattutto secondo noi l'interesse maggiore è il fatto che ci indicano dei meccanismi di malattia su cui si può intervenire con una terapia, cioè delle nuove cause di malattia su cui si può intervenire con la terapia. Terapia più mirata. E questa è la cosa più interessante, diciamo, di queste cose. Professore, la ringrazio per essere stato con noi, complimenti allora per questo studio e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Buona giornata. Ciao. Dottoressa Lorenzi, torniamo a noi, ci sono tantissimi messaggi e molte telefonate che stanno arrivando all'800 24 00 24. Andiamo subito a Bari perché ci aspetta Maila, buongiorno. Buongiorno dottoressa Carbone, la ringrazio per avermi dato la possibilità di chiamare, spero di essere breve. Sì. Io ho 58 anni e ho sempre avuto i capelli ricci, però li ho sempre avuti folti, corposi e quant'altro. Ho notato da un paio di anni che si sono diradati, sono diventati un po' più fragili, così. Niente, la domanda è, e poi sul davanti sono un po', appunto, stanno andando indietro, insomma. Sì. Cosa posso fare? Come mai? Grazie. L'ascolto per radio. Grazie, no? Maila, bella domanda. Dottoressa Lorenzi, occupiamoci di Maila. Perché il suo è un problema, se vogliamo, molto diffuso, specie dopo la menopausa. Anche noi donne facciamo i conti con capelli che non sono più quelli di prima, e tante volte ne perdiamo più del dovuto, scopriamo delle zone, Maila diceva appunto che sono diradati, ma soprattutto la fronte diventa più spaziosa. Ecco, che cosa si può fare? Allora, che cosa si può fare? Partiamo col concetto che sicuramente, come qualsiasi altra parte del corpo invecchia, anche purtroppo i capelli invecchiano, ok? E quindi il fusto sicuramente col passare del tempo può diventare un po' più sottile, quindi generalmente i capelli possono diventare sicuramente meno folti, meno resistenti, ma il problema che cita Maila è sicuramente un problema che coinvolge, non voglio dire il 50% delle donne dopo la menopausa, ma sicuramente ci avviciniamo a questa percentuale, e questo è legato purtroppo alla perdita dei nostri estrogeni, sì, che ci proteggono per tutta la vita, ma ahimè ad un certo punto ci abbandonano, e se abbiamo altri tipi di problematiche, a volte molto serie, anche i capelli purtroppo, tutti gli annessi in generale ne possono risentire, ok? Ci sono delle soluzioni? Ma non so se Maila è in terapia estrogenica sostitutiva per altre problematiche, perché di solito molto spesso le donne lo sono, sicuramente vale la pena comunque di fare una visita e di iniziare ad utilizzare dei prodotti. Ci sono dei prodotti che bloccano la caduta, possono quindi prolungare la fase anagene, quindi la fase di crescita del capello, e quindi migliorarne sicuramente la qualità e quindi la consistenza. Stiamo a Milano perché abbiamo in linea con noi Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno signora. Io telefonavo solo per così dare una testimonianza di questo tipo. Io ho 58 anni, ho moltissimi capelli e li ho sempre portati lunghi, devo dire. Attorno ai 40 ho avuto un periodo in cui li perdevo, sono andato dal mio parrucchiere, il quale mi diede un ciclo iniziale e poi mi disse: guarda, se vuoi un consiglio, visto che hai dei bei capelli sani, fai una cosa sola, tagliateli sempre con la luna crescente. Mm. Beh, funziona. Questo è successo 20 anni fa. Io vivo in campagna e so che la luna crescente influisce sulla legna, sull'erba del prato, eccetera. Sui capelli non avevo più paio di idea. Devo dire che 20 anni dopo io ho tutti i miei capelli, non ne cade neanche uno, li tengo sempre lunghi. Vivo benedetta luna, allora, Giuseppe. Chissà che la dottoressa Lorenzi sei d'accordo, dottoressa. Intanto insomma, magari non è scientificamente provato, Bravissima. ma tagliarseli con la luna crescente o calante, meglio allora crescente, no? Sicuramente, sai come quando a luglio dovevo partorire, mi hanno detto sicuramente partorirai quando arriva la luna, insomma mi hanno fatto tutto un discorso sulla luna. E poi ha partorito con la luna? No, ho fatto il taglio cesareo. Va bene, comunque diciamo così, non ci sono assolutamente degli studi scientifici che dimostrano questo, quindi è chiaro che nella mia pratica comunque giornaliera e quotidiana mi capita spesso di sentire questo discorso, ok? E quindi io non contrario mai chiaramente quello che un paziente mi riferisce, assolutamente. Vorrei sicuramente dire e sfatare il fatto che comunque i capelli non sono un prato, e questa era una domanda che mi era già stata fatta. Tagliare i capelli non li rinforza, ok? Quindi io ritengo che se il signore è così è perché è geneticamente così, e probabilmente sarebbe successo anche se i capelli non se li fosse tagliati. Però nel dubbio perché sicuramente no? Seguiamo la natura, e la natura di solito aiuta sempre. Allora, tante volte quando non stiamo magari bene, oppure guardando i capelli li troviamo spenti e sfibrati, abbiamo, diciamo la verità, pensato a qualche cosa che li rimettesse in forma, e ad una cura ricostituente per loro. D'altronde non è neanche facile resistere alle tentazioni che promettono con l'aiuto di pilloline, chiome degne di Sansone. Allora ne vorrei parlare oggi con voi. Ho invitato il dottor Massimiliano Pazzaglia, dermatologo all'Università di Bologna. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno a voi. Dottore, un tempo nel cambio di stagione si facevano le cure ricostituenti per i bambini, poi le abbiamo accantonate. Per i capelli questa abitudine rimane, quindi un aiuto dall'interno per avere capelli folti serve, non serve, è meglio insistere sull'alimentazione? Facciamo un po' di chiarezza, dottore. Allora, come ha detto giustamente lei, è difficile resistere a questi richiami, anche da un punto di vista commerciale per quanto riguarda il discorso dell'integratore. Come dice la parola stessa, il termine integratore serve ad integrare una specifica ed eventuale carenza. Sì. Quindi anche un'integrazione alimentare deve essere mirata nei confronti di quello che manca, certo. Esatto, che abbiamo noi. Ma un uso indiscriminato di integratori alimentari o vitamine, oltre a non servire, in alcuni casi può anche risultare dannoso anche per la salute del capello. In che senso, dottore? Ecco, questo aspetto mi interessa, perché uno dice tutt'al più male non fa, perché con la vita che si fa oggi si mangia male, si è di corsa, qualche cosa, qualche carenza ci sarà. Invece bisogna individuare le carenze per colmare queste, perché il rischio quale potrebbe essere, dottore? Allora, il primo step, appunto, come abbiamo detto, è individuare le carenze, perché un'assunzione senza criterio di vitamine, come dicevamo, può essere dannoso. Nello specifico dei capelli, la vitamina A, ad esempio, a dosi superiore alle 30.000 unità, quindi non quella che possiamo assumere con la dieta di tutti i giorni, sì, mangiando carote o mangiando un'integrazione dovuta appunto ad un integratore alimentare, risulta addirittura dannoso. Ad esempio, un'integrazione alimentare che in dermatologia viene utilizzata particolarmente con la vitamina A per quanto riguarda il discorso della protezione, sì, della fotoprotezione soprattutto per il sole, addirittura nei fumatori risulta estremamente dannosa, perché può aumentare un'incidenza di malattie polmonari. Quindi sono tutte cose che bisogna ben tenere presente. Le vitamine fanno bene se prescritte da un medico nell'ambito di una specifica carenza, ma l'autoprescrizione, l'uso indiscriminato, può essere dannoso, e fortemente dannoso. Dottor Pazzaglia, io la ringrazio per essere stato con noi. Intanto abbiamo preso nota. Le auguro una buona giornata. A e voi, buona ci giornata sentiamo tutti. Presto. Salve. Grazie. Dottoressa Lorenzi, abbiamo Lucia che ci aspetta da Alessandria. Lucia, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Che succede? Allora, volevo chiedere alla dottoressa Lorenzi come mai, pur avendo avuto tantissimi capelli da ragazza, cioè il mio problema era quello di averne troppi, no? E in seguito diciamo che hanno incominciato a diventare più spenti, più opachi, e poi ne ho persi tantissimi. Diciamo che anche mia madre ed anche mia nonna avevano poi in età più anziana pochi capelli, sì, però io ho iniziato prima di loro e avevo il morbo di base, dove l'ho scoperto dopo che mi hanno curato per parecchi, sì, anni, degli attacchi di panico, e invece avevo questo problema tiroideo, sì, e desideravo appunto sapere se questo può avere influito particolarmente, oppure, visto che l'endocrinologo dice è una questione probabilmente legata alla menopausa, all'età, se diciamo devo rassegnarmi. E un'altra cosa che volevo chiedere, siccome tante volte però tanti capellini nascono, io cerco di fare delle cure così, dei prodotti buoni, specifici, comprati in farmacia, e ne nascono tantissimi, sì, capellini, però poi non riescono a... Non arrivano a lunghezza. Grazie Lucia, sentiamo la dottoressa Lorenzi. Allora, un caso abbastanza complicato, nel senso che chiama in causa sicuramente un fattore di ereditarietà, sì, materno, e l'ereditarietà materna sviluppo di una eventuale alopecia androgenetica è estremamente importante, ok? Sì. Non è vero che il morbo di base dove non è importante, anzi, lo è. Le malattie della tiroide sono citate come fra le principali cause di aumento della caduta dei capelli, e quando un paziente viene in visita e riferisce un'aumentata caduta di capelli, l'assetto tiroideo è la prima cosa che si controlla sempre, la funzionalità tiroidea. Assolutamente, quindi ritengo forse che possa aver slatentizzato forse una predisposizione che la signora aveva. Adesso rassegnarsi o cure? Le cure ci sono, naturalmente non devono essere consigliate e prescritte da uno specialista. Le cure ci sono dei prodotti e stiamo parlando chiaramente di farmaci, perché qui abbiamo un problema di malattia, se la vogliamo definire così. Esistono dei farmaci che sono in grado di dare tono, volume, diametro e dimensione a quei piccoli capelli che la signora riferisce di avere. Dottoressa Lorenzi, io volevo rapidamente parlare con lei prima di parlare dei capelli del nostro bambino, ci raggiungerà il dottor Andrea Dio ci aiuti, parlare rapidamente dello shampoo. Lo shampoo che utilizziamo può avere una relazione, delle ricadute sulla quantità dei nostri capelli, anche sul benessere dei nostri capelli? Cioè, sbagliando prodotto rischiamo la chioma? Allora, vorrei chiarire un concetto. Prima di tutto, il tempo di contatto dello shampoo con il cuoio capelluto è molto breve. Infatti il prodotto generalmente viene diluito con l'acqua, va risciacquato dopo qualche minuto, quindi non esistono degli shampoo che fanno cadere i capelli. Sì. Ok, questo chiariamolo. Grazie. E invece sì, esistono degli shampoo aggressivi che possono danneggiare sicuramente il fusto, favorire la disidratazione del capello, favorirne la fragilità e favorire le doppie punte. E come possiamo ad accorgercene? Quando il danno è fatto oppure... Allora, dobbiamo rivolgerci a degli shampoo, dobbiamo iniziare a guardare anche la composizione degli shampoo, dobbiamo farceli consigliare, dobbiamo sicuramente prendere degli shampoo adatti al nostro tipo di capelli, privi di tensiattivi, quindi non troppo schiumogeni. La schiuma non fa molto bene, so che piace perché... Sì, perché ti dà l'idea della detersione. Comunque, bravo. Con il nostro parrucchiere, nel caso invece ci sia un problema più grave con il dermatologo, dobbiamo trovare lo shampoo adatto e cerchiamo di trovare anche lo shampoo adatto per i nostri bambini. In linea con noi il dottor Andrea Dio ci aiuti. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno, grazie. Dell'unità operativa di dermatologia all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Dottore, un paio di minuti da dedicare ai capelli dei nostri bambini. Nascono dei bambini pelatini e nascono invece dei bambini che hanno veramente tantissimi capelli. Questo però non è che il buongiorno si vede dal mattino. Assolutamente no, infatti diciamo questo dipende da un fenomeno fisiologico, sia il fatto che verso il settimo ottavo mese di vita in utero, quindi prima che il bambino nasca, in genere si assiste a una caduta sincrona dei capelli della regione della fronte e della parte laterale del cuoio capelluto. Però questa caduta abbastanza massiva dei capelli non avviene in modo così preciso in tutti i soggetti, per cui in alcuni casi quando il bambino nasce ci troviamo nel momento più importante di questo fenomeno, per cui per questo motivo c'è un'ampia variabilità nel numero di capelli e anche nello spessore dei capelli dei bambini appena nati. Questo soprattutto per quanto riguarda la zona della fronte e la parte laterale invece dei capelli. Tra l'altro, appunto, questo dipende dal fatto che i bambini quando sono molto piccoli hanno i capelli che sono più o meno sincronizzati nella fase di caduta, cosa che invece nell'adulto è differente. Certo, perché quindi nell'adulto c'è un mosaico invece di... Ne perdiamo poche alla volta, invece loro sono tutti insieme. Dottore, un consiglio rapido per lo shampoo da utilizzare coi bambini piccoli. Devono essere degli shampoo dedicati a loro o bastano degli shampoo neutri? Allora, se non ci sono delle condizioni o patologiche o comunque di alterazione, come appunto la dermatite seborroica, valgono un pochino quei criteri che ha detto anche poc'anzi la dottoressa, ossia gli shampoo più delicati sono sicuramente quelli di tipo oleoso che non sono schiumogeni perché sono privi di tensioattivi, sono sicuramente i più indicati per i capelli fini e delicati dei nostri bambini. Ringrazio la dottoressa Lorenzi per essere stata con noi per tutta l'ora, ringrazio il dottor Dio ci aiuti che ci ha raggiunto dandoci delle indicazioni per i capelli dei nostri bambini, vi auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie per essere stati con noi. E adesso, prima di salutarvi, do il benvenuto al professor Guido Rasi, direttore generale dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Professor Rasi, buongiorno e bentornato. Buongiorno a lei. Professore, i prodotti omeopatici acquisiscono lo status di medicinale, proprio come dispone la normativa comunitaria. Quindi anche i prodotti omeopatici verranno sottoposti per la registrazione alle stesse regole in vigore per tutti i medicinali. Questo, professor Rasi, è una garanzia per chi li acquista. Sì, è così. In realtà per i prodotti omeopatici ovviamente non si fa una richiesta di efficacia, però vi è ovviamente la stessa necessità di qualità e sicurezza. Questo tutela sia i produttori seri di prodotti omeopatici, sia ovviamente i consumatori di prodotti omeopatici. È un processo lungo, sono 31.000 registrazioni che ci vengono chieste presso l'AIFA, quindi un carico di lavoro importante. Tuttavia, pur cercando di semplificare le procedure, è assolutamente necessario arrivare a livelli di qualità e sicurezza identici a quelli di qualsiasi altro farmaco. Sicurezza per l'acquirente, sicurezza e qualità. E anche regole competitive tra i produttori omeopatici eque, cioè sono persone che lavorano in assoluta qualità e non è giusto che subiscano la concorrenza di chi non dedica altrettanta attenzione al proprio prodotto. Professor Rasi, parliamo anche di tempi. Ci vorrà un po' di tempo. Lei immagini che in Germania ci sono 42 assessor che lavorano solo sui prodotti omeopatici. Noi ne abbiamo 70 per tutta la nazione. E quindi qualche difficoltà ci sarà e per questo dobbiamo trovare procedure di semplificazione pur nell'assoluta sicurezza. Ci vorrà qualche tempo, però è un processo che doveva iniziare e se si inizia, prima o poi ne verremo a capo. Qualche mese ci vorrà di sicuro. Professor Rasi, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, l'aspetto presto. Buona giornata anche a voi che ci avete seguito. Appuntamento, come sempre, domani, dopo il GR delle 11. Vi aspetto, non mancate.